A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Tutela della concorrenza, apertura al mercato, contrasto alle concentrazioni e ai cartelli. Sono questi i principi fondamentali cui si ispira la legge numero 287 del 1990, che ha istituito nel nostro paese l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Ora, a oltre 25 anni dall'approvazione di quella legge, è utile provare a stilare un bilancio per approfondire alcune questioni centrali per la nostra economia. Ad esempio, quali sono gli ostacoli che continuano ancora a frapporsi all'affermazione in Italia di una vera cultura del mercato? E allora quanto mai utile fare un passo indietro e soffermarci sulla storia dell'antitrust a livello internazionale, da cui ha preso le mosse la legislazione adottata nel nostro paese. Quando si parla di antitrust e concorrenza, il primo riferimento è quello americano. È negli Stati Uniti che è stato emanato nel 1890 lo Sherman Act, un testo in cui sono fissati i principi di una moderna legge antitrust. L'antitrust vide la luce in Europa nel 1957 con il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea, a tutela della concorrenza fra Stati, ed è stato esteso alla concorrenza interna a ciascuno Stato con successive leggi nazionali. La prima in Germania in quello stesso anno, il 1957, le ultime, tra cui quella italiana, nel 1990. La disciplina europea colpisce le intese restrittive, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni fra imprese che eliminano o rendono impossibile la concorrenza nel mercato rilevante. Un caso, quest'ultimo, non previsto nel trattato del 1957 e aggiunto con regolamento comunitario nell'89. Con gli emendamenti al trattato introdotti a Maastricht nel 1992, la concorrenza è rimasta principio fondamentale, ma affiancata dal principio di coesione. Il controllo della Commissione europea sulle operazioni di concentrazione si applica al di sopra di determinate soglie di fatturato delle imprese coinvolte. Se questo è il contesto internazionale da cui ha preso le mosse la nostra legge istitutiva, ora veniamo al nostro paese. L'autorità garante della concorrenza e del mercato è stata istituita in Italia con la legge numero 287 del 10 ottobre 1990. È un'autorità collegiale di 5 componenti nominati dai presidenti della Camera e del Senato. Il presidente è scelto tra personalità che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e di notoria indipendenza. I 4 membri sono scelti tra personalità della magistratura, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte di Cassazione e nella docenza universitaria, professori ordinari di materie economiche o giuridiche, o tra altre figure di spicco e riconosciuta professionalità con esperienza in ambito economico. L'articolo 10 della legge istitutiva sancisce che l'antitrust italiana operi in autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. La legge del 1990 definisce 3 funzioni di tutela assegnate all'autorità: colpire le intese restrittive della concorrenza tra imprese che colludono, impedire gli abusi di posizione dominante all'interno del mercato nazionale con effetti negativi per i consumatori o limitazione alla libertà di ingresso di altre imprese sul mercato con sanzioni che possono arrivare al 10% del fatturato ma non hanno mai natura penale, controllare le operazioni di concentrazione tra imprese, quali le fusioni, per valutare se comportino limitazione della concorrenza o rafforzino eccessivamente una posizione dominante sul mercato. Abbiamo in linea Alberto Pera, che è stato il primo segretario generale dell'antitrust, autore insieme a Marco Cecchini del libro La rivoluzione incompiuta, 25 anni di antitrust in Italia, edito da Fazzi. Buonasera dottor Pera e benvenuto. Buonasera Dino. Allora, perché una rivoluzione incompiuta? Dobbiamo tornare forse all'epoca in cui la legge fu emanata. La legge non fu soltanto la trasposizione nella normativa italiana di regole europee, ma si poneva l'obiettivo di cambiare il modo di vedere l'intervento dello Stato dell'economia. E per questo dobbiamo tornare ad allora, quando buona parte dell'economia era controllata da imprese pubbliche che detenevano situazioni di monopolio di fatto o di diritto. L'idea che allora coloro che più si batterono per l'introduzione della normativa, ricordo il ministro Battaglia, il ministro Zanone, Guido Rossi, volevano cambiare il paradigma e introducendo delle regole per la concorrenza, stabilire che le regole del mercato erano quelle che dovevano guidare il funzionamento dell'economia. Da questo punto di vista era una vera e propria rivoluzione. In parte si è realizzata, in parte ancora da compiere. In parte ancora da compiere, da qui una rivoluzione incompiuta. Ma e qui c'è anche il tema delle sanzioni, perché alcuni sostengono che in realtà, non avendo l'antitrust veri poteri cogenti, è difficile che poi si riesca a dar seguito alle sue decisioni nel mare poi della della giustizia di tipo amministrativo. Ma in verità ci sono stati diversi periodi da questo punto di vista nell'attività dell'antitrust. Si è iniziati con una attività sanzionatoria relativamente leggera, perché appunto la cultura della concorrenza non era così diffusa, ma poi con Tesauro e anche per la verità con l'ultima autorità presieduta da Pitruzzella si è passati a una politica sanzionatoria che ha delle finalità dissuasive, tende cioè a scoraggiare non solo i sanzionati ma anche quelli che potrebbero essere sanzionati dal commettere atti anticoncorrenziali, e devo dire che da questo punto di vista negli ultimi anni si sono alquanto serrate le eventuali falle nel sistema sanzionatorio. Il problema piuttosto è un problema di scoperta, soprattutto per quello che riguarda i cartelli. L'economia italiana è un'economia probabilmente almeno cartellizzata come quella di altri paesi e forse anche di più, ma scoprire i cartelli è molto complesso. Ci sono dei cosiddetti programmi di clemenza che funzionano molto bene a livello comunitario, hanno più difficoltà a funzionare a livello nazionale. Poi c'è il problema, della normativa e quindi il problema di modificare, di eliminare o ridurre i vincoli dell'attività concorrenziale che vengono dalle leggi e dalle attività amministrative. Qui nella vostra esposizione si è forse non ricordato abbastanza un potere molto importante dell'autorità, che è l'attività, il potere consultivo, che addirittura è stato rafforzato dai decreti Monti, introducendo la possibilità per l'autorità di impugnare davanti al tribunale amministrativo atti amministrativi che restringano la concorrenza. E questo è importante per affermare proprio quanto si diceva poc'anzi, cioè la cultura della concorrenza del nostro paese. È un processo che richiederà ancora molti anni, considerando appunto da dove veniamo, l'abbiamo appena detto. Quindi insomma non c'è da attendersi soluzioni miracolistiche, mi sembra di intendere. Sì, io credo che non si possano pretendere soluzioni miracolistiche, anche se, ripeto, il cambiamento che si verificò per esempio negli anni 90 nel modo di concepire l'intervento sul mercato fu radicale, e quindi immagino che qualcosa del genere possa succedere anche via via che la cultura si diffonde. Certo, l'autorità ha un ruolo importante in questo, perché prendendo posizione sia nella sua azione diretta, da intese di abusi di posizione dominante, sia nella sua azione di promozione della concorrenza, ponendo problemi rispetto ad eventuali misure che tendono a restringerle, anche attraverso un'attività di stimolo al governo e al Parlamento, può fare molto. A proposito di promozione della concorrenza, entra in gioco il tema fondamentale delle liberalizzazioni nel nostro paese, perché negli anni 90 abbiamo molto privatizzato ma poco liberalizzato, quindi forse questo è il vero tema da affrontare. Ma io credo francamente che le liberalizzazioni godano nel nostro paese di una disistima non giustificata. Perché in realtà in settori come il settore elettrico, il settore energetico, anche la telefonia, il settore mobile, della telefonia, sì, si sono fatti passi che in altri paesi ancora non si sono fatti. Il problema è casomai di proseguire sulla strada, in prima di tutto. Ci sono stati dei problemi anche di governance di alcune delle imprese. E poi c'è tutta l'area molto vasta dei servizi pubblici locali, che in realtà sono estremamente importanti nell'assetto produttivo e anche nella struttura, nel determinare l'efficienza dell'economia, cioè tutto il settore della logistica, e qui certamente c'è molto da fare. Abbiamo l'ultima questione che volevo porre. Cominciato il nostro viaggio nell'antitrust parlando dello Sherman Act del 1890, un testo fondamentale che appunto caratterizza la legislazione americana, è molto diverso da quello che poi è stato il percorso che si è seguito in Europa, dottor Pera. Ma in realtà le due norme fondamentali, che sono quelle contro gli abusi e le posizioni dominanti, sono sostanzialmente riprese nelle due normative, sono simili. Il punto è l'interpretazione, che nel tempo è andata variando negli Stati Uniti come è andata variando in Europa. Certamente negli Stati Uniti c'è stata, a partire dagli anni 70, negli anni 80, con la cosiddetta scuola di Chicago, un'attenzione maggiore che in Europa alle conseguenze economiche e sull'efficienza e le giustificazioni economiche delle diverse pratiche, mentre in Europa c'è forse un atteggiamento un po' più formalista. Però particolarmente a partire dalla fine degli anni 90 c'è stato un avvicinamento, anche se ogni tanto, come all'epoca di Monti col caso G. Honeywell, con più recentemente sul caso Google, ci sono ovviamente delle differenze. Va bene, grazie, molte grazie a Alberto Pera, che è autore insieme a Marco Cecchini, lo ricordiamo, del libro La rivoluzione incompiuta, 25 anni di antitrust in Italia, pubblicato da Fazzi. Buona serata. Buona serata.